pubblicato sulla rivista Contemporaneamente Versi, direttore editoriale Luca Giambonino, una poesia di Luca Giambonino, dal titolo Rapito dal Natale. Rapito dallo spirito del Natale, giro la città a festa addobbate ed ascolto le musiche che arrivano di qua e poi di là. Visito con gioia i negozianti, poiché è il momento di far doni ad amici e parenti e sorrido, di un sorriso che riempie il cuore. E ad un tratto dal cielo scende la neve, avremo finalmente un bianco Natale, come da anni non se ne vedevano da queste parti. Ed io, carico di pacchetti e pacchettini, vengo su per il viale felice, oh che momento, la gioia di aver fatto qualcosa di buono, e la neve tutto attorno danza presa dal vento. Risalgo le scale tranquille, ogni pacchetto trova il suo posto sotto l'albero. Albero, simbolo di rinnovata gioia. Potesse essere sempre così, vita mia. Ogni giorno Natale, ogni giorno donare sorrisi e doni, doni e sorrisi per tutti quanti.